as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Eccoci di nuovo qui. Quest'anno iniziamo la nuova stagione del Pane e Rose. C'è stata la pausa nel mese di agosto. Abbiamo chiuso con una puntata dedicata alla Ducati. Vi consiglio a tutti di andarla ad ascoltare in podcast sulla pagina Facebook Il Pane e Rose, troverete tutte le nostre puntate. Un ottimo accordo. Oggi però iniziamo proprio con una storia triste che ci fa molto arrabbiare. Sono anni che seguiamo le vicende della Breda Marina Lidibus, oggi Industria Italiana Autobus, e di nuovo quest'estate ero al mare, così apro il giornale, sono in sciopero. Nel mese di agosto i lavoratori hanno ricevuto questa bruttissima notizia del 2 agosto. Se vi ricordate che c'era questo imprenditore, questo amministratore delegato di questa multinazionale, questa azienda, che ha rilevato insomma l'Industria Italiana Autobus, il quale ha praticamente chiesto di trasferire 77 lavoratori della produzione da Bologna a Flumeri in Campania. Cioè, praticamente, dice anche il nostro delegato della FIOM che abbiamo intervistato, eravamo all'attivo i delegati di Bologna in cui si è parlato di tutte queste questioni, crisi dell'auto, Breda Marina, c'è stato questo attivo in cui abbiamo discusso soprattutto della crisi dell'automotive e del contratto nazionale che deve ripartire e del referendum. Insomma, abbiamo avuto la possibilità di intervistare Muzzicato, che è il delegato della FIOM, che abbiamo spesso intervistato, ma sono anni che seguiamo nella vicenda della Breda Marina, e ci ha raccontato di questa sorpresa, questo tentativo di licenziare in maniera mascherata 77 lavoratori della produzione. Lui ci racconterà quello che è successo, e è su un pezzo che ci ricorda un po' cosa sono certi tipi di padroni. Dei Now, queste puntate ci accompagneranno in tutta la puntata. I Now sono un gruppo galiziano, spagnolo, di compagni, come si deve. E poi adesso, dopo la canzone, ci ascoltiamo l'intervista Muzzicato fatto all'attivo dei delegati della FIOM a Bologna. No se os intento, paiso astro mudo, batendo asas, una noite calada, venien en bandos con pez de veludo. Chupar o sangue fresco da manada. A todas partes llegan los vampiros. Posan los predios, posan las calzadas. Traen o seu ventre de esposos antiguos. Mas nada os prende as vidas acabadas. Eles comen todo, eles comen todo. Eles comen todo e non deixan nada. Eles comen todo e non deixan nada. Nada de nada. Echando medo, toman los vendidos, oen sus gritos, na noita papada, sacen los fosos, víctimas de un credo, e non se esgota, o sangue da manada. Son los mordomos do universo todo, amos a forza, donos en ley, enchen as tuyas, beben viño novo, danzan a ronda, no pinal do rey. Eles comen todo, eles comen todo, e non deixan nada, eles comen todo, e non deixan nada, nada de nada. Eles comen todo, eles comen. siamo qui con il delegato della FIOM Mozzicato, della Breda Megnarini, adesso Industria Italiana Autobus. Siamo qui all'attivo dei delegati della FIOM. Con te ci siamo sentiti diverse volte, abbiamo fatto tante puntate. Questa estate io non ero a Bologna, non sono riuscito a farti l'intervista, ma ho seguito la vostra vicenda. Racconta un po' ai nostri ascoltatori quello che è successo. Sì, niente, è successo che una vertenza lunghissima, conoscete già, la conosci già, il 2 di agosto il nostro nuovo datore di lavoro, amministratore delegato, il fratello presidente, ci ha convocati, non l'ha fatto lui, l'ha fatto fare l'ufficio personale, ci ha dato una lettera con una procedura di trasferimento che in realtà noi abbiamo considerato dichiarata a tutti i media, a chiunque, era una procedura di trasferimento sotto mentite spoglie. In realtà erano dei licenziamenti collettivi, perché in questa procedura di trasferimento c'era scritto che 77 tra lavoratrici e lavoratori avrebbero dovuto trasferirsi nello stabilimento, nell'altro stabilimento di Industria Italiana Autobus, uno è il nostro a Bologna, nell'altro stabilimento a Flumeri, provincia di Avellino. Quindi voi capite che chiedere a un lavoratore di Bologna, ma anche viceversa, che sia chiaro, ma chiedere a un lavoratore o una lavoratrice di Bologna, in questo caso 77, di trasferirsi da Bologna ad Avellino, tra l'altro ci tengo a sottolineare che l'età media all'interno dello stabilimento è di circa 50 anni, quindi ovviamente se hanno genitori più anziani, se hanno mutui, se hanno figli, praticamente è stato come chiedersi di dimettersi. Poi ci sono le leggi che lo consentono, la gente tant'è che ci chiedeva cosa succede adesso se dico di no, posso avere accesso alla NASPI, sì lo puoi avere per giusta causa, ma di fatto noi l'abbiamo considerato un licenziamento collettivo. Certo, quanti dipendenti oggi ci sono a Bologna? Un poco più di 150, se non ricordo male 154, ma poco importa, poco più di 150. Ricordiamoci che quando sono entrati in quello stabilimento, quindi 30 anni fa, eravamo oltre 600 e ancora prima 900, quindi insomma. E dunque praticamente volevano spostare solo gli operai della Italiana Industria Italiana Autobus di Bologna in Avellino, e gli impiegati sarebbero rimasti qui. Sì, allora diciamo così, infatti non l'ho detto, i 77 coinvolti erano tutta la forza produttiva, quindi tutta la produzione, ma noi sappiamo benissimo che di fatto se tu chiudi la produzione in quello stabilimento, il secondo passo che farai, perché è ovvio, sarà così, perché è chiaro che alcuni enti e le lavoratrici e i lavoratori che hanno mansioni impiegatizie poi non hanno più motivo d'essere, di esserci. In realtà è questo il fatto. Certo, loro puntano a chiudere lo stabilimento, stiamo parlando di serie industriale, dipende da come lo si vuole pronunciare. Noi eravamo rimasti che c'era stata una cordata di imprenditori che volevano rilanciare, volevano investire sugli autobus elettrici in Italia e l'automotive. Cosa è successo? Niente, è successo che, guardate, allora c'era una cordata, tra l'altro bolognese, tra l'altro hanno veramente cariche importanti nel mondo industriale bolognese e comunque emiliano romagnolo, era la cordata, lo posso dire, tanto era nota, Gruppioni, sì. Marchesini e Stirpe. Come ho sempre detto io, come dicono le organizzazioni sindacali, noi non facciamo il tifo per nessuno, non facevamo il tifo per nessuno, però sicuramente queste sono persone, quelle che ho citato, Gruppioni, Marchesini e Stirpe, seri, che sanno fare imprenditoria, quindi senza fare il tifo. Capite che, dato che il confronto era il gruppo Marchesini, Gruppione Marchesini Stirpe e Civitillo, che fa parte di Seri Industrial, Seri Industriale come lo vuoi pronunciare, è ovvio che noi ci aspettavamo che l'azienda fosse passata a questo gruppo bolognese, a questa cordata bolognese. In realtà il ministro cosa ha fatto? Il ministro, il ministero, la sottosegretaria Fausto Bergamotto all'improvviso ci ha comunicato la cessione del 98% delle quote dell'SPA al gruppo Seri Industrial. E Seri Industrial cosa fa? Seri Industrial fa componentistica, cioè non ha mai fatto un autobus, non sa che cosa vuol dire costruire autobus, fa una serie, per esempio batterie, quindi componentistica, ma un autobus è formato da tantissime parti. Te l'avevo già detto, ve l'avevo già raccontato, in un autobus c'è la componente elettronica, c'è la componente pneumatica, la componente che riguarda il motore, la motoristica, ed è, insomma, è veramente un oggetto molto molto complicato. Certo. Tra l'altro ricordo a tutti, a quelli che ci stanno ascoltando, che la realtà è che un autobus viaggia su strada, cioè è un mezzo pubblico, quindi un bene per la collettività. Quindi la nostra vicenda non è una vicenda soltanto bolognese, è una vicenda nazionale, perché ricorda anche questo, che siamo l'unica azienda italiana che produce autobus. Certo, ci sono 550 ordini, dicevi tu oggi, dunque il lavoro ce l'avete, però loro vogliono delocalizzare tutto ad Avellino. Sì, in realtà è proprio questo il fatto, cioè, allora, un conto, io produco un bene, lo dicevo oggi sul palco, io produco un bene, non riesco più a produrlo perché non è più di moda, perché non è più vendibile, perché non è più appetibile, ok, cioè è un peccato, però è fatica andare avanti, no? Ma noi abbiamo 550 ordini e addirittura ne abbiamo soltanto 550, comunque più di 500, adesso magari mi sbaglio su qualche numero, ma più di 500, semplicemente perché ne avevamo addirittura di più, ma alcuni sono stati, si è arrivato un accordo, dato che non ce la facevamo, perché in realtà non è che non c'è forza produttiva, la nuova proprietà e quelli che l'hanno preceduto, in realtà il 70% della proprietà precedente era pubblica, quindi c'era Leonardo, c'era Invitalia, hanno fatto sì che noi non riuscissimo a completare questi mezzi, gli autobus, perché noi non avevamo la componentistica, quindi c'è questo paradosso di avere questa azienda, l'unica italiana, che ha 550 ordini in un mercato che ne prevede oltre 50.000 in Italia, cioè, certo, per intenderci, e chiudono questa azienda che, ripeto, fa un bene per la collettività, tra l'altro ecosostenibile, perché siamo in grado di fare autobus anche elettrici. A voi non vi siete fermi, è raccontato che riuscite a fare uno o due autobus al mese, perché non avete materiale per non vi fanno nemmeno arrivare il materiale per fare questi autobus. Certo, voi considerate che questa, quando c'è stata comunicata questa procedura di trasferimento, quindi dei licenziamenti sotto mentite spoglie, noi cosa abbiamo fatto? Ci siamo subito recati. Intanto abbiamo subito scioperato. Ci siamo recati al Ministero, abbiamo richiesto un incontro, ci è stato concesso, siamo andati in mobilitazione con tutte le lavoratrici e i lavoratori dello stabilimento di Bologna, ma in realtà cosa è successo all'interno del Ministero? È stata data la parola subito al nuovo datore di lavoro, l'ingegner Civitillo, che ha fatto 15 minuti raccontando tutte le criticità che ci sono nello stabilimento bolognese, quanto ci mettiamo a fare gli autobus, che ci mettiamo di più, che non riusciamo a finirli, ma come si fa? Cioè, adesso io mi domando, le lavoratrici e lavoratori di quello stabilimento, di quello bolognese, fermo restando che a Flumeri succede la stessa cosa, la mattina si devono recare a comprare loro i pezzi, la componentistica, i motori, cioè in realtà che sia questa proprietà che quella precedente non ci dava ciò che serviva per produrli. Quindi la domanda retorica è, li volete fare o non li volete fare? Oppure era tutto studiato per chiudere sì, lo stabilimento? Perché chiudere lo stabilimento, visto che ci sono gli ordini, visto che chiedono gli autobus? Guarda, te lo dico molto semplicemente, noi in questo momento al governo abbiamo coloro che non hanno la minima idea di quelle che sono le politiche industriali. Noi siamo, questo l'ho già detto diverse volte, noi siamo la massima rappresentazione di quello che succede in Italia, cioè non c'è una mancanza completa di politiche industriali, si no, pensa ad altro, ma le politiche industriali... Forse interessa più che altro il sito dove c'è la fabbrica. Può essere che, allora voi considerate che noi siamo a ridosso della zona fiera, chi certo, non lo sapesse, zona San Donato, tra il centro commerciale Meraviglia e la zona fiera, quindi è ovvio che adesso è una zona molto appetibile. È appetita, però è grande lo stabilimento. È grandissimo lo stabilimento, è oltre 150.000 metri quadri nel suo complesso, di cui 55.000 metri quadri coperti, quindi c'è una pista di collaudo, ci sono capannoni che tra l'altro sono proprietà di Leonardo, che era Leonardo, sapete, no? Cioè, sì, insomma, opera nell'aerospazio, nella sicurezza. Leonardo è ancora proprietario di quegli stabilimenti e Leonardo è uscito dall'SPA. Perché non fate gare armati? Esatto, essendo che purtroppo, cioè per fortuna, moralmente, dicevo purtroppo come provocazione, cioè nel senso, dato che non facciamo industria bellica, allora non interessa più, no? Sì, questo è il problema. Ho saputo che c'è anche un gruppo cinese, forse, che ho letto sul giornale. Sì, c'è un gruppo cinese che si sta interessando, adesso sono uscite delle notizie che citavano, diciamo, i grossi gruppi cinesi che costruiscono bus, sono essenzialmente quattro, sono uscite delle notizie, adesso non dico quello che è stato citato, diciamo che uno dei quattro certo, gruppi cinesi ci hanno detto che in una settimana ci diranno quale, non possono dire il nome del gruppo cinese perché l'azienda è quotata in borsa, quindi non possono, tra virgolette, certo, dopare il mercato. Insomma, voi aspettate un piano industriale, ma soprattutto volete la tenuta dello stabilimento di Bologna, chiaramente. Ecco, io ti ringrazio per la domanda, perché c'è un'altra cosa da dire, l'avevo dimenticata e la domanda mi permette di dire questa cosa qua. Noi non abbiamo un piano industriale. Noi non abbiamo un piano industriale. Il piano industriale ci è stato raccontato a voce, senza nemmeno una slide, senza dei dati, senza dire quello che si fa e quello che si sarebbe dovuto fare a questo punto. Quindi non è possibile non avere un piano industriale. Tra l'altro, ti dico anche questo, noi proprio per avere un piano industriale a firma RSU, quindi mia e dei miei colleghi dell'RSU, a firma delle organizzazioni sindacali, avevamo richiesto, avevamo inoltrato una richiesta di incontro che è stata disattesa. Quindi io l'ho detto al Ministero, mi sono voltato verso l'ingegner Civitillo che era dietro di me in sede ministeriale, ho detto l'avete avuta questa lettera qua, l'ho indicata con la mano, ho detto vi è stata recapitata, perché la prima volta, io lavoro in quello stabilimento da 30 anni, da tanti tanti anni faccio sindacato, faccio il delegato sindacale, e non mi era mai successo, e ne abbiamo avuti tanti di datori di lavoro, da pubblici a privati, ne ho avuti tanti, non mi era mai successo che una richiesta di incontro fosse neanche presa in esame. Sì, certo, ma... Finalmente, grazie all'intervento, ovviamente, io parlo per quanto riguarda me, della FIOM CGIL, finalmente c'è stato concesso, perché poi l'ingegner Civitillo è proprio venuto mentre uscivano dal Ministero da me, e d'accordo con le organizzazioni sindacali si sono presi degli appuntamenti, quindi a breve ci sarà questo incontro. Il problema è che è iniziato veramente male, perché come sono arrivati hanno cercato di chiudere lo stabilimento o la parte produttiva dello stabilimento. Questo è un brutto segno di... E la FIOM oggi ha parlato di manifestazione sull'automotive, se è importante che tutti collaborino sull'automotive, è una questione che non è bolognese, è una questione nazionale. Assolutamente una questione nazionale, è importantissimo l'automotive, anche perché intanto noi come stabilimento, come azienda, ne facciamo parte del settore automotive. In secondo luogo, come è stato detto oggi, c'è un interesse collettivo, perché comunque c'è una serie anche di infrastrutture che ruota attorno al settore automotive. Oltre ai posti di lavoro c'è tutta la componentistica, c'è l'indotto, quindi voi vi rendete conto quanto è fondamentale il settore automotive, tra l'altro in un periodo in cui si fa riferimento, questo lo fa il governo, lo dice e poi dopo non lo applica, alla transizione ecologica. Quindi voi rendetevi conto quanto è importante il settore automotive se si parla di città green, di mezzi ecosostenibili. Abbiamo visto la politica, che illustri personaggi politici hanno partecipato alle vostre iniziative quest'estate, ma la posizione sull'automotive in generale la stiamo ancora aspettando. Sì, stiamo aspettando, la partecipazione c'è stata, ma la posizione effettiva sull'automotive, come affrontare il tema automotive, stiamo ancora aspettando. Bisogna che ce ne facciamo carico noi. Bisogna che ce ne facciamo carico noi, e devo dire le lavoratrici e i lavoratori, perché sono loro anche attraverso il voto, attenzione, perché poi è scontato, ma anche attraverso il voto, le scelte che si fanno, e alla fine decidi le sorti anche di un paese. Ok, ti ringrazio, siamo sempre con voi. Grazie mille. Ecco qua, canzone sempre dei Now, avete ascoltato Venceremos, come di buon auspicio, perché noi pensiamo che i lavoratori della Preda Medellini possono vincere, perché sono motivati, sono organizzati, sono anni che combattono e in questa battaglia speriamo di vederli vincitori. Ora, avete ascoltato Muzzicato, quello che ci ha raccontato, io voglio dire solo una cosa. Allora, il tema, così come abbiamo anche ascoltato all'attivo, ripetuto dal segretario e anche altri delegati, il tema non può essere solo un tema bolognese. L'ha detto anche Muzzicato nell'intervista, ma deve essere un tema nazionale. Qui veramente stiamo superando l'assurdo. Abbiamo un'azienda che ha ordini, abbiamo un'azienda che produce mezzi che sono importanti e necessari. Abbiamo un'azienda che finalmente va verso la conversione, verso la cosiddetta green economy, un sistema che guarda alla mobilità elettrificata, contro l'inquinamento, e non c'è un straccio di piano industriale governativo e si dà in mano questa azienda a chi si sta dimostrando non essere in grado. C'era questa cordata di imprenditori bolognesi, non è che sono un fan, però si è scelto chi in realtà molto probabilmente ha altre intenzioni. Si parla, qualcuno dice, di speculazione, che il territorio faccia gola. Questo è uno dei motivi perché hanno tentato di spostare i lavoratori a Frumere, in Campania, per fondamentalmente far morire lo stabilimento. Questa può essere un'ipotesi. Certamente non si fanno investimenti e non si vuole veramente produrre autobus elettrici in Italia. Ce ne sarebbe bisogno, abbiamo fatto una puntata specifica di quanto farebbe guadagnare a tutta la società poter produrre in Italia autobus elettrici. Noi non riusciamo a soddisfare il fabbisogno, ma nemmeno il 10% di quello che viene fatto in Italia, anche meno. E noi acquistiamo autobus anche inquinanti all'estero, quando potremmo esportare e potremmo creare veramente un indotto dovuto all'elettrificazione, questa volta positivo. Ecco, non si vuole fare. Cosa fare a questo punto? Il tema è che serve che ci sia una battaglia comune, una manifestazione, degli scioperi. Bisogna che tutti si facciano carico della vertenza della Bremerini, perché proprio rappresenta un sistema malato di come si intende l'industria in Italia, di come si vuole far evolvere. Ecco perché speriamo che il prima possibile si organizzi una grande manifestazione per l'automotive, che vada oltre ai meccanici. Però dobbiamo cominciare a ragionare anche di nazionalizzazione seri, sotto il conto dell'operaio. Non è possibile che Finmeccanica pensa solamente alle armi. Se a Bologna avessero fatto i carri armati, molto probabilmente Finmeccanica avrebbe ancora lo stabilimento, sarebbe allargato, avrebbero acquistato pure gli spazi tutto intorno ai Roma e Rem. Purtroppo questa è la realtà. Si parla tanto di green, ma in realtà quello che interessa è la guerra, quello che interessa è l'industria delle armi. Per questo serve un grande movimento anche politico, un partito che è veramente rivoluzionario e di classe, che possa cambiare le sorti di questo paese, perché ne abbiamo bisogno, ne va della nostra sopravvivenza oltre che del nostro posto di lavoro, del futuro dei lavoratori meccanici e non solo italiani. Ecco. Un saluto a tutti e ci sentiamo alla prossima puntata. Orgoglioso de estar.